Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Benvenuti, iniziamo subito ad occuparci della nostra salute. In regia Fabio Cantadori, in redazione Laura Vanossi. Andiamo a sentire i titoli di oggi. Orticaria, un'irritante e fastidiosa compagnia. I nostri medici cantanti, ascoltali, guardali e votali. Scaldiamoci con la zuppa. Orticaria è l'infiammazione della pelle caratterizzata dalla comparsa diffusa o circoscritta di ponfi pruriginosi, fugaci di varie forme e dimensioni. Questa è la definizione che potete leggere su qualsiasi dizionario. A me viene già da grattarmi un po'. Ma già 2000 anni fa Ippocrate definiva l'orticaria un'affezione a sé, chiamandola cnidosi, che in greco significa ortica. Oggi parleremo di orticaria, un nome che va assolutamente spiegato nei vari sintomi per non fare confusione, perché noi associamo all'orticaria ad una serie di segnali: il prurito, il rossore, i ponfi. Ma vediamo se la definiamo bene l'orticaria, e oggi ne parliamo con il professor Gianfranco Altomare, che è tornato a trovarci, direttore del servizio di dermatologia al Galeazzi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Orticaria, e lì è un mondo. È un mondo. Allora, direi che è una sindrome un po' particolare, l'orticaria. È una sindrome che prevede una diagnosi facilissima, perché chi è che non riconosce un ponfo che può essere simile a una puntura di una zanzara? Quindi dal punto di vista diagnostico, direi, è la malattia più facile che la dermatologia presenti. Mentre i problemi cominciano a venire fuori quando si deve parlare di genesi, cioè da che cosa dipende l'orticaria. E le cause che possono dare l'orticaria sono veramente tantissime. Da situazioni di contatto, pensate alle ortiche, no? Quando uno tocca l'ortica gli viene una manifestazione di eritema topoponfoide, che è l'orticaria localizzata. Oppure ci possono essere delle patologie interne, patologie gastrointestinali. Uno può avere un problema per quanto riguarda la digestione, può avere un problema intestinale. E poi parliamo dell'immenso gruppo delle orticarie, dove non si riesce a capire veramente la causa. E fra queste possiamo mettere tante volte anche quelle immunologiche. Immunologiche vuol dire non solo allergiche, perché le orticarie allergiche, contrariamente a quelli che pensano tanti, sono veramente poche. Okay. Allora, oggi però, come cerchiamo di farlo tutte le volte che è possibile, vogliamo dare una seconda lettura del problema e ci affidiamo alla dottoressa Katia Stanzani, che è psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Tante volte abbiamo detto la pelle parla, abbiamo definito tante volte disagio a fior di pelle. Anche l'orticaria in qualche senso, in qualche modo, può essere un disagio proprio che affiora, ed è un disagio molto fastidioso. Certo, anzitutto dobbiamo ricordare come la superficie corporea ha un'importanza fondamentale come mezzo di rapporto con l'ambiente, ai fini soprattutto della strutturazione psicologica dell'individuo e per l'espressione delle emozioni. La psiche, tra l'altro, esercita maggiormente la sua influenza proprio sulla pelle rispetto che altri organi. È proprio uno specchio la pelle di quello che si muove dentro di noi a livello di emozioni, di paure, di timori. Sì. Pelle, tra l'altro, e sistema nervoso si sviluppano dallo stesso foglietto, il famoso foglietto germinativo, l'ectoderma, e la pelle si potrebbe quasi intendere come una superficie rovesciata del sistema nervoso e dunque l'organo psicosomatico per eccellenza. Professor Altomare, vengo da lei perché sull'orticaria c'è parecchia confusione, perché sembra che la diagnosi sia facile, no? Ciascuno di noi le ha detto, può vedere un ponfo, dice, è venuto l'orticaria, ho mangiato le fragole, mi è venuto l'orticaria, qualcosa che mi ha fatto male, un farmaco magari. Certo, è possibile. Certamente. Allora noi individuiamo tutti questi sintomi che noi, forse troppo semplicisticamente, noi dico non addetti ai lavori, associamo all'orticaria, e invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci indipendentemente, no, dalla diagnosi che hanno ricevuto, non per fare delle diagnosi telefoniche, sostituirci al medico curante, ma per fare un po' di chiarezza. L'orticaria quindi ha ponfi, prurito. Allora, l'orticaria è una malattia, come dicevo prima, che si presenta con delle chiazze eritematose poco eritematose, direi colorito roseo, sulla quale si sorge un ponfo. Il ponfo non è nient'altro che una vasodilatazione dei piccoli vasi che ci sono nella pelle, nel derma, che fanno uscire un siero, e questo siero dà questo gonfiore sulla superficie, quindi sono leggermente rilevati sulla superficie cutanea. Poi esiste una forma molto più rara dell'orticaria comune, che è l'angioedema, dove invece questa vasodilatazione, questo gonfiore avviene talmente in profondità che non si vede in superficie, il paziente ha dolore, ha fastidio, però non ha prurito. Quindi anche in questo caso bisogna distinguere, diciamo, l'orticaria superficiale, la comparsa di ponfi superficiali, dalla comparsa di questo edema, di questo gonfiore in profondità. E questo appunto si chiama angioedema, che è diverso dal punto di vista genetico. Ne soffrono più le donne, gli uomini, i bambini? Allora, facciamo una sorta di identikit. A questo punto bisogna fare una caratterizzazione dell'orticaria, diciamo, da immunologica e non immunologica. Cioè, quell'orticaria che dipende dal sistema immunologico e dall'orticaria invece che non ha niente a che vedere. Lei prima ha accennato alle fragole. L'orticaria da fragola... Perché sono la mia passione. Esatto. L'orticaria da fragola non è immunologica. Le fragole hanno delle sostanze particolari, intende, sulle quali non mi soffermo, per le quali vanno a finire sulla cellula bersaglio, che è il mastocita, cioè questa cellula che noi abbiamo nella pelle, anche nella pelle, e liberano l'istamina, liberano quei mediatori, quelle sostanze che poi danno la famosa vasodilatazione. Quindi non è un'orticaria allergica quella dovuta alle fragole, così come non è un'orticaria allergica l'orticaria legata a tantissimi farmaci. Esistono per esempio gli antinfiammatori che danno delle orticarie che non hanno un meccanismo allergologico, hanno un meccanismo immunologico ma non allergologico, cioè riescono a far formare questi ponfi sulla pelle senza dare allergia. Dottoressa Stanzani, vengo da lei, ci sono persone che ci danno il prurito alle mani quando le vediamo, no? E questa la dice lunga sul prurito, che è anche una espressione di irritazione e, se vogliamo, anche di rabbia. Ma certo, il prurito, intendo il prurito che non ha un fondamento, una causa organica, ma un prurito definito psicosomatico, quindi con un'eziopatologia insomma sconosciuta, come nei casi a volte dell'orticaria cronica definita idiopatica, può avere a che fare con una situazione di stress che pone l'individuo nella difficile situazione di dover magari reprimere delle emozioni o dei sentimenti comunque inaccettabili, come può essere dell'aggressività, della rabbia, dell'imbarazzo in situazioni sociali, per cui retroflette. Noi usate questo usiamo termine. Questo termine, l'emozione, e utilizzando appunto il grattamento come scarica diciamo motoria di queste emozioni inesprimibili altrimenti. Infatti, a proposito di grattamento, ci sono delle persone, professor Altomare, ma questo forse è più di competenza della dottoressa Stanzani, che proprio quando anche in assenza di ponfi, di lesioni, di rossore, proprio si grattano, hanno questa è una maniera come un'altra di scaricare la tensione del momento. Quando uno dice mi gratto la zucca, probabilmente dipende da questo, no? Quando si trovano magari a disagio, quando hanno dei problemi, quando non sanno come venire fuori da una situazione, tendono a grattarsi. Questo può succedere facilmente, queste cose si vedono in tantissime persone. Questo però non ha niente a che vedere con l'orticaria. Non è di competenza del dermatologo comunque. Ma in genere no. 824 0024, questo è il nostro numero verde, se volete intervenire per parlarci dei vostri ponfi, rossore, prurito. Abbiamo così separato tutti questi sintomi per dare modo a voi di raccontarci come li vivete, se li avvertite magari all'inizio della giornata oppure verso sera, se sono degli alimenti in particolare che li scatenano oppure il contatto con alcuni detersivi. Alcune persone via SMS, Carlo mi scrive, mi prudono sempre le mani e sono arrossate, soprattutto in questo periodo quando viene il primo freddo. Che cosa può essere? Professor Altomare. Bella domanda. Allora, possono essere tante cose, può essere un problema circolatorio, se mi dice che li viene quando ha freddo. Alcune persone hanno una vasocostrizione posizione, cioè o hanno prima un mi consenta il termine, un imbiancamento delle mani legate a una vasocostrizione per il freddo, e poi hanno una vasodilatazione reattiva, e questa vasodilatazione reattiva porta ad avere notevole prurito, quello che succede a tanti per esempio quando fanno la doccia calda. Finché stanno sotto la doccia non succede assolutamente niente, quando escono dalla doccia gli rimane una vasocostrizione, cioè hanno una pelle più rossa per diverso tempo, e questo in un ambiente che non è della stessa temperatura di quella che avevano sotto la doccia porta un notevole prurito. Questo può essere il fattore del prurito delle mani col freddo. Professore, ci sono dei tipi di pelle più a rischio? Immagino ad esempio la pelle secca è più a rischio di prurito e di rossore rispetto alla pelle grassa? Assolutamente sì, e questo succede spessissimo nelle persone di una certa età. Diciamo il cosmetico naturale che viene prodotto dalle ghiandole sudorali, siano queste quelle ecrine, quelle proprio del sudore, siano queste sebacee, cioè quelle che producono il grasso, man mano che si va avanti con l'età funzionano di meno, e questo cosmetico naturale che si dovrebbe distribuire naturalmente sulla superficie cutanea e quindi tenerla morbida, tenerla umettata, tenerla elastica, venendo man mano meno con l'età, tende a far seccare la pelle, e la pelle secca degli anziani dà sicuramente un prurito. Infatti si parla di prurito delle persone anziane. Viviana ci chiama dalla provincia di Milano, 800 24 00 24. Buongiorno Viviana, benvenuta. Buongiorno, grazie di avermi fatto parlare. Dunque, io sono la mamma di un ragazzo che adesso ha 18 anni, sì, e che ha iniziato con una bella orticaria, poi definita idiopatica, la sera prima degli esami di terza media, riempiendosi completamente di ponfi. E da lì abbiamo iniziato questo percorso dentro l'orticaria, nel senso che a quel punto la sua orticaria non è mai... diciamo non si è mai risolta. Sì. Abbiamo fatto una serie di esami. Di esami, praticamente tutto, l'abbiamo rivoltato come un calzino senza trovare nessuna allergia, però lui da allora è sotto antistaminico. Ha un dosaggio che adesso è un terzo di pastiglia, nel senso che sto cercando di fargli fare uno svezzamento rispetto all'antistaminico perché gli episodi sono inferiori. Però poi abbiamo fatto una psicoterapia che secondo me lo ha aiutato, e l'agopuntura anche, che è un'altra. E quello che volevo sapere è se esistono queste forme, diciamo, adolescenziali, se abbiamo la prospettiva che la cosa si possa risolvere, ed eventualmente se ci sono nuovi approcci, perché noi li abbiamo tentati un po' tutti. Adesso lui praticamente tiene una dieta senza nessun istamino liberatore da 5 anni, niente cioccolato, si immagini cos'è per un ragazzino. Era un amante del cioccolato, dei pomodori, di tutto quello che comunque libera o favorisce l'istamina, insomma. E l'ha dovuti eliminare. Professor Altomare, allora Viviana ci racconta un episodio che è nato alla vigilia degli esami, che quelli di terza media sono veramente il primo impatto per un ragazzino. Andrei con ordine. Allora, la prima cosa è cercare di spiegare l'evento. Indubbiamente c'è stato uno stress in questo ragazzo, perché si faceva la terza media, ormai è un ragazzo. Indubbiamente ci sono delle orticarie da cosiddetti neurotrasmettitori. È stata individuata non solo una sostanza, la sostanza P, che è una sostanza che dà come l'istamina una vasodilatazione e quindi la formazione di ponfi. Ricordiamoci che ci sono tante altre malattie sulla stessa base. Per esempio esistono le sostanze sempre dovute a neurotrasmettitori, come la sostanza VIP, che dà per esempio la colite spastica nelle persone che hanno questi problemi. Allora io direi ha provato a ridargli le sostanze che liberano l'istamina come il cioccolato, perché non dovrebbero avere un'influenza notevole in questo caso. Se si individua una orticaria di tipo neurogeno, cioè un'orticaria legata a delle sostanze liberate dalle fibre sensitive del nostro sistema nervoso, gli istamino liberatori diretti non dovrebbero avere, e quindi privarlo di queste sostanze mi sembra una cattiveria. Allora, noi vogliamo parlare anche di prurito, e io vorrei coinvolgere anche la dottoressa Isabella Cecchini, direttore del Dipartimento Ricerca sulla Salute di GFK Eurisco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che ci ha raggiunto. Dottoressa Cecchini, anche voi avete indagato, nel corso di una ricerca dedicata all'orticaria, il vissuto del prurito. perché lo sappiamo, già il nome prurito ci dà parecchio fastidio. Che cosa è emerso dalla vostra indagine, dottoressa? Sì, abbiamo fatto una ricerca su 600 pazienti sofferenti di orticaria in modo continuativo, quindi sofferenti che avevano almeno 3 episodi all'anno, per capire quello che era il loro vissuto del disturbo e l'impatto sulla qualità di vita. I dati sono molto interessanti e i pazienti, sicuramente è un disturbo che per gran parte delle persone che ne soffrono ha un impatto sulla qualità di vita, provoca disagio sia sull'umore che sul sonno. L'umore forse è l'area più colpita dal disagio, è una patologia, è un disturbo che crea nervosismo, soprattutto irritazione, rabbia. I nostri pazienti ci dicono che abbiamo intervistato, ci dicono che sono infastiditi dal disturbo, irritabili, affaticati, ma anche meno concentrati. Ecco, pensiamo anche solo, dottoressa Cecchini, chiedo conferma ai nostri ospiti, quando ci pizzica una zanzara, certo, e c'è questo ponfo pruriginoso che iniziamo a grattare, non si spegne il prurito, quindi già questo proprio... ci fa irritare. Quindi sicuramente l'umore, addirittura toccando anche proprio la sfera della tristezza e della depressione. Qualcuno ci dice che si sente meno motivato e anche depresso a causa di questo disturbo. E un altro dato importante riguarda l'impatto sul sonno, il sonno che evidentemente ha una importanza enorme sulla qualità di vita delle persone. I nostri intervistati ci dicono che l'orticaria, il disturbo, il grattarsi rovina in media 3 notti alla settimana, quindi vuol dire una notte sì, una notte no, in qualche modo rovinata dal disturbo. Professor Altomare, quindi il prurito non si spegne neanche di notte? Ma io direi che già questo ci indirizza verso una diagnosi un po' particolare. Io mi soffermerei sul fatto che il prurito aumenta verso le ore serali e notturne. E questo sta a dire che il paziente, quando è distratto dal lavoro, quando è impegnato in qualche cosa, non sente prurito. Quindi mi rivolgerei sicuramente, se il paziente si rivolgesse a me, verso un prurito di tipo neurogeno, quello del quale abbiamo parlato prima. Perché? Perché quando non è più distratto dal lavoro, quando non è più impegnato a fare un qualche cosa, ricomincia a venirgli il prurito, e questo sicuramente più di notte. Tenga presente che noi dermatologi andiamo incontro spessissimo a persone che vengono a farsi vedere per quelle che vengono chiamate le neurodermiti, cioè si grattano. Cos'è neurodermite? La neurodermite è una dermatite che non ha né cause allergiche né cause organiche, ma è legata solo esclusivamente a fattori nervosi, e possono queste neurodermiti essere localizzate in qualsiasi punto della pelle, dal collo ai piedi. In genere c'è sempre una causa scatenante, cioè magari il paziente ha un momento di stress, viene punto da una zanzara, si irrita con qualche cosa e comincia a grattarsi, e questo grattamento va avanti nel tempo, e questo grattamento porta a un ispessimento della cute, e questo ispessimento della cute dà un prurito particolmente evidente nelle ore serali e nelle notturne, perché il paziente, quando è distratto da altre cose, non ci pensa. 824 0024, raccontateci se avete prurito, rossore, ponfi, se al vostro prurito ci pensate anche durante il giorno, no, quando si manifesta, se il contatto con l'acqua vi irrita, oppure se vi irritano particolari persone, speriamo non noi. Scriveteci 349-238-6666, chiamateci 824-0024. Una mela al giorno. E come ogni martedì siamo pronti a cantarle, a suonarle all'influenza A con le regole di prevenzione che i nostri medici cantanti hanno trasformato in canzone. Al momento se la stanno giocando Andrea Vitali e il dottor Stefano Bruno, o se preferite i Sulutumana e i Maffi. Voi continuate, come state facendo, ad esprimere le vostre preferenze. Andiamo avanti così, ad ascoltare, cantare, votare i medici e soprattutto mettendo in pratica le regole di prevenzione che queste canzoni ci insegnano. Oggi in linea con noi abbiamo un personaggio che è diventato molto molto famoso e che ha dimostrato di avere qualcosina in più. Girando, vivo soltanto per metà e lascio ogni mattina, ti cercherò nel mare. Allora, Allora, se siete fan di X Factor l'avete riconosciuta questa voce, che è quella di Matteo Beccucci. Ciao Matteo! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Senti, tu che sei il vincitore dell'ultima edizione di X Factor e sei abituato a stare nella posizione del giudicato, che è abbastanza difficile. A proposito, ti è venuto mai qualche ponfetto, qualche pruritino? No. Eri agitato? Perché oggi che indaghiamo il grande mondo dell'orticaria o dei sintomi che noi descriviamo come orticaria, magari un po' di emozione. No, le farei volentieri a meno. Ecco, infatti, è una compagna molto fastidiosa. Oggi invece noi ti trasformiamo in giudice, che è un bel saltino di ruolo, che dici? Insomma, dai. Allora abbiamo pensato di invitarti a così visionare il videoclip e di esprimere un po' la tua preferenza, di trovare l'X Factor di ciascuno dei videoclip, quindi quello di Andrea Vitali, di Stefano Bruno, di Alberto Pellaio, di Oreste Gentilini. Ma diciamo che il primo, io vado in ordine di come li ho visti. Sì, che è quello dei Sulutumane di Andrea Vitali. Link, sì. Allora in ordine mi sembra... Il più simpatico mi sembra il primo, sì, quello dei quattro personaggi. Poi il secondo, vabbè, ci sono i bambini. A me i bambini, ho due figlie. Lo sappiamo, quindi di Alberto Pellai ti ha colpito. È un tema a me caro, sì. E poi il terzo, non lo Tecno, Oreste Gentilini. Il terzo è molto simpatico, ma preferisco le gambe dell'infermiera. Sì. E il quarto, diciamo, è Maffi. Il soul, diciamo così. Quindi è un messaggio soul, però io premierei il primo. Senti, sì. Tu premieresti il primo, e qual è quello che invece ti è rimasto più impresso? Perché non necessariamente il preferito, no, il primo, ci sono il primo. Anche come musicalità, quindi sì, H-N-1, non più nessuno, quello lì mi piace. Quello lì ti piace, sì, senti, sì. Io spero che insomma questa nostra iniziativa continui a far scendere in campo altri medici con altre musiche, sempre con le regole di prevenzione, perché abbiamo visto che la prevenzione comunque aiuta, al di là di tutte le polemiche, lavarsi le mani, arieggiare i locali. Lo stai facendo anche tu a casa? No, io sono d'accordo, perché è un tipo di informazione trasversale, cioè non c'è, come si dice, non è la solita avvertenza, è un modo di avvertire anche, diciamo, un po' più simpatico, dai, sì, divertendoci. E comunque secondo me il messaggio rimane uguale, anzi forse rimane meglio, e comunque sono sempre buone regole di educazione, perché ci sono persone che le mani non si lavano mai, quindi. Siamo tornati insieme, in linea con noi abbiamo Agostino che ci chiama da Cagliari. Agostino, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, io ho un'orticaria che si manifesta dalla parte alta, cioè dalla tripetta fino alla testa. È molto in testa. Sì. Con dei ponti pruriti. Questo ce l'ho da quasi dieci anni. Nella parte alta del tronco fino alla testa. Puntini, prurito? Non si è... No, ponfi proprio grossi, Ponfi grossi. Degli esami? Delle IGE praticamente, sì. Dove quelle parziali, cioè in specifico non ho niente, però il disturbo rimane. Agostino, sono un po' breve con lei perché abbiamo raccolto le informazioni utili, perché la sua voce si sente un po' male, professor Altomare, però lei ha capito. Spero. Ha colto, io l'aiuto. Ponfi, esami a posto, parte alte del... Domanda da 100 milioni. Comunque, insomma, da quello che pare... potrebbe essere un'orticaria legata al sudore. Ci sono alcune orticarie che vengono nei pazienti quando hanno stati emozionali con sudorazione o quando sudano per esercizio fisico. E questo potrebbe spiegare il fatto che vengono questi ponfi dove si suda di più, cioè il tronco e la testa. Ma lì cosa facciamo? Ci sono delle sostanze, anche in questo caso l'istamina non è il mediatore più importante, ma in questi casi il mediatore, cioè la sostanza che dà la vasodilatazione, che dà il ponfo e il prurito, è l'acetilcolina. Quindi bisogna rivolgere la terapia verso questi farmaci, cioè i farmaci che blocchino, che rallentino l'azione dell'acetilcolina. Si possono avere degli ottimi risultati. L'abbiamo anticipato che parlando di prurito viene quasi, no, viene la sensazione di grattarsi in qualche modo, sembra tra quasi contagioso. Però ci sono, dottoressa Stanzani, delle ricerche che, se vogliamo, hanno indagato un po' questo fenomeno e ci dicono delle cose interessanti. Beh, diciamo anzitutto che il sistema sensoriale cutaneo è evidentemente influenzato dagli stati emotivi, che sono in grado di modulare la percezione degli stimoli cutanei amplificandoli o attenuandoli. Certo. Alcuni studi hanno provato che anche la dimensione cognitiva delle emozioni gioca un ruolo importante nella produzione del prurito. Ad esempio, il prurito aumentava quando si faceva parlare il soggetto dello stimolo o gli si presentava una foto che riproduceva l'area cutanea dove aveva sede questo, certo, prurito. Si riconosceva. Esatto, mentre al contrario la soglia del prurito si alzava nel corso di esercizi di soluzione di problemi logici o altre attività. Quando distraenti. La mente è altrove, sì, professor Altomare, il prurito prima, si spegne. Certo. Esatto. Ma il prurito, e il prurito io allargo, quindi ponfi, diciamo orticaria, anche se il professor Altomare giustamente ha fatto le dovute precisazioni. Sì, una cosa è prurito, una cosa è l'orticaria. È una di quelle situazioni, sono una serie di sintomi che noi, insomma, in qualche modo cerchiamo di spiegare, di curare, no? Perché è talmente diffusa che può capitare più volte anche durante l'anno, uno o due episodi, magari abbiamo mangiato qualcosa, ci ha fatto male qualcosa, ci ha punto un insetto, ecco che allora c'è questa manifestazione. E noi siamo un po' tutti balanzoni, giustamente. Ma volevo chiedere alla dottoressa Cecchini se anche nella loro indagine hanno rilevato un po' questo aspetto, cioè che ciascuno di noi all'orticaria, al prurito, ai ponfi sa dare o ipotizza una possibile spiegazione. Sì, infatti abbiamo chiesto alle persone che abbiamo intervistato quali pensassero fossero le cause del loro disturbo, della loro orticaria, del loro prurito, ed è interessante vedere le risposte, perché circa la metà dei nostri intervistati ci dice che probabilmente è un problema di allergia, ma c'è un terzo che riconosce allo stress un ruolo fondamentale, quindi è convinto e consapevole che sia lo stress che in qualche modo gli causa questo tipo di fenomeni. Il caldo poi emerge, il freddo anche l'esercizio fisico, il professore citava. L'odore, sì. Nonché anche lo sfregamento dei vestiti, quindi ci sono tante idee che le persone si fanno, ma la più importante è l'allergia e forse lo stress credo che abbia questo un ruolo fondamentale. Qua scende in campo il professor Altomare, la parola al clinico. Questo sta a dimostrare il miliardo di cause conosciute e probabilmente il miliardo di cause non ancora conosciute. Io direi che prima di tutto dobbiamo distinguere l'orticaria acuta dall'orticaria cronica. Bravo. Si dice orticaria cronica quando l'orticaria dura almeno 6 settimane. Senza tregua. O con pochissimi periodi di tregua. Cioè sta bene 2 giorni, poi gli ritorna, sta bene un giorno, poi gli ritorna. Dall'orticaria acuta che addirittura pare che abbia colpito o che colpisca il 20% della popolazione. Quindi probabilmente milioni e milioni di persone, 20% sono tantissime, hanno avuto, sto parlando dell'orticaria acuta, cioè quella che uno mangia le fragole, come dicevamo prima, sì, si gratta per 2 giorni e poi passa tutto, sì, oppure quello che viene punto da un insetto ed è particolarmente sensibile all'insetto e ha un prurito diffuso. Certo. Oppure quello che prende l'aspirina e ha un'intolleranza all'aspirina e gli viene l'orticaria per 2 o 3 giorni e poi li passa. Queste sono le orticarie acute. E quindi sono le orticarie che si autolimitano praticamente, perché la cosa va a posto da sola. Contrariamente all'orticaria cronica, che invece ha una causa organica nella maggior parte dei casi. Scusi, e quindi bisogna individuarla. Bisogna individuarla. Il messaggio che noi possiamo dare quindi ai nostri ascoltatori, se l'orticaria è una vostra compagna da circa 6 mesi, parlatene con il medico e fate degli accertamenti, certo, adeguati. E poi vede, questo che è venuto fuori da questa indagine dell'Eurisco è un'idea che hanno tanti e che è sbagliata. L'orticaria allergica è un'orticaria che riveste un ruolo relativamente piccolo delle orticarie. Se lei fa delle indagini, abbiamo sentito prima il paziente, no? Che dice: ho fatto tutti i test allergologici e non ho trovato niente. Perché è vero, è così. Le orticarie allergiche sono pochissime. Quindi bisogna rivolgere l'indagine verso altre cose. Allora, diamo la parola ai nostri ascoltatori e poi parliamo ancora dell'indagine Eurisco, il rapporto con il medico, andiamo dal medico, tamponiamo noi, magari a volte complicando la situazione. Maria ci chiama da Genova, buongiorno Maria. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Un bacio a lei subito, guardi. Grazie. Telefono per mia figlia che ha 20 anni. Sì. È una decina di giorni che ha attorno alle palpebre, attorno agli occhi, rosso, un po' ruvido, un po' si accennua, ma attenua, un po' si aumenta questo rossore. Vabbè. E Maria, lei le avrà detto, come dico io alle mie figlie, ecco perché ti trucchi e non ti strucchi. No, ecco. No, non si trucca, poi è una specie di salutista, nel senso quindi... che... da piccola ha avuto la dermatite atopica, ecco. Intollerante al latte, quindi non usa né burro né fritti né niente. Insomma, mangia quasi scondito per non ingrassare, insomma così. È una dieta. Neanche un po' di pesto si fa, neanche due trofiette col pesto. Neanche quelle. Oh, mamma mia, vivere a Genova e non mangiare il pesto è un delitto. Verrebbe voglia di dire per forza che c'ha la dermatite intorno agli occhi, che non mangia niente. No? Non mangia niente, dice il professor Altomare. Professore, nel modo più genuino che posso, insomma. Ecco, no, ecco. Maria ci dice, noi vede che puntiamo molto sulla dieta. Sì, ma in questo caso la diagnosi è già pronta, cioè la dermatite delle palpebre è un sintomo classico della dermatite atopica. La dermatite atopica è una condizione che va avanti negli anni e ha una caratteristica molto importante, cambia zona. Nel bambino insorge sul volto, insorge in genere nella parte centrale del volto, un po' meno bambino, quando ci si avvicina all'adolescenza comincia a colpire le pieghe, quindi il collo, la piega del gomito, il ginocchio. Sì. E poi quando invece si arriva a un'età più adulta colpisce le palpebre, colpisce le labbra, colpisce le mani. Quindi è un sintomo di dermatite atopica che è tornata. E però si può curare. Certo che si può curare. A proposito della dermatite brillanti. Atopica, ci risiamo. Togliamogli questa dieta che non serve assolutamente a niente. Mauro, buongiorno. Venga buongiorno con me. Tanto che l'ho fatta aspettare, andiamo al consiglio di lettura. Poi siamo tutto da lei. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa il libro che si intitola Un fiume di cocaina di Furio Ravera. Per partecipare a questa iniziativa dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a essere@radio24.it con il titolo del libro, i recapiti e il numero di telefono. Abbiamo scelto questo libro perché domani parleremo con i nostri esperti di cocaina, quindi ci portiamo in qualche modo avanti ed è un trucchetto, se volete, per annunciare la puntata di domani. In collaborazione con IBS.it. Maurino, eccoci. Allora, qual è il mio problema? Una bimba di 2 anni e mezzo che sistematicamente, questo è il terzo inverno che inizia, come arriva la stagione fresca, diciamo, o più secca, sì, inizia a grattarsi sui polsi, dietro le ginocchia, ma a grattarsi fino a sanguinare, vero? Che si grattano. È una cosa impressionante. Solo creme cortisoniche per cercare di fare, o se no devo immergerla dentro l'olio, dalla mattina alla sera. Non so come fare. Abbiamo fatto i test allergologici, non troviamo niente. Il professor Altomare è qua pronto, che ha già detto non serve a niente. Non cosa? Niente. L'olio questa o i test allergologici? È un'altra delle situazioni pari a quella delle palpebre di prima della signora che ci ha telefonato da Genova, credo, sì, no? Giusto. Allora, come dicevo, la dermatite atopica cambia zona. Sono zone classiche delle manifestazioni cutanee della dermatite atopica. Quali sono il collo, le pieghe del gomito e le pieghe del ginocchio. La secchezza fa parte della dermatite atopica. La dermatite atopica si evince proprio dalla secchezza della pelle, perché hanno un difetto di secrezione ghiandolare. E quindi nel tempo la pelle si secca e accentua il prurito. Non userei le creme cortisoniche in una bambina per tanto tempo. Possono essere usate per i primi giorni per attenuare il prurito. Adesso ci sono dei farmaci, sono degli inibitori della calcineurina, che sono molto più sicuri dei cortisonici e si possono usare per tanto tempo. Allora, questo ci dimostra che parlarne con il medico conviene, dottoressa Cecchini, però cosa viene fuori dalla vostra indagine? Ci rivolgiamo al medico quando la nostra pelle ha questo disagio oppure non evitiamo? Ma il dato che emerge dalla ricerca è molto interessante e forse anche un po' inquietante, ed sarà importante parlarne col professore, perché il medico è importantissimo all'inizio, è il medico che fa la diagnosi all'inizio, in genere il medico di famiglia, il dermatologo, c'è anche in misura minore anche l'allergologo che interviene nel diagnosticare il disturbo. Il problema è che nel tempo il rapporto col medico si allenta, infatti vediamo che dopo 4 anni di disturbo solo 1/3 dei nostri intervistati ha un contatto diretto col medico e si cura il disturbo consultando il medico. Quindi vuol dire che ci siamo lasciati per strada un amore che insomma scema un po'. Dipende, molte volte è colpa del medico perché non sa indirizzare i pazienti. Vede, questi che hanno la dermatite atopica perdono tempo, una barcata di soldi a fare test allergologici. Poi i test allergologici sono negativi perché non servono e poi non gli danno le cose con gli emollienti per la pelle, il paziente si gratta. Probabilmente questi che abbandonano l'indirizzo medico è perché sono seguiti male. Se fossero seguiti un pochino meglio dal medico, probabilmente non abbandonerebbero. Io vengo da lei, dottoressa Stanzani, perché in alcune telefonate è emerso l'aiuto dello psicologo, dello psicoterapeuta. Allora, io ci sono delle evidenze, aiuta davvero a chi è indirizzato un consulto, un accompagnamento da parte di un esperto? Ma come dicevamo prima, alcune forme di orticaria idiopatica e di prurito che non hanno a che fare con una causa organica sono frutto di conflitti, quindi di conflitti irrisolti che trovano, come dire, sfogo sulla pelle. Per questo tipo di sintomi è sicuramente utile un approccio psicologico. Alcuni interventi, come tra l'altro le psicoterapie, le tecniche di rilassamento di training autogeno o anche l'ipnosi, possono, oltre che lavorando sul paziente per la gestione di determinati tipi di emozioni e per non so, aiutarlo anche ad utilizzare le sue risorse perché la malattia non sia l'unica soluzione ai suoi problemi, riescono a modulare e a potenziare le risposte del sistema immunitario, quindi hanno un effetto... Lo rieducano un po'. Sì, hanno proprio anche un effetto organico coinvolgendo l'istamina. Dottoressa Cecchini, è venuto fuori nella vostra indagine il ricorso a tecniche di rilassamento oppure il consultare specialisti? Ma in realtà il dato forte che emerge dalla ricerca è il medico come primo riferimento, poi credo che sia il medico che debba indirizzare il paziente. Siamo nelle vostre mani, professor Altomare. Meno male. Maurizio, vediamo se Maurizio si è affidato a un medico oppure no. Maurizio, buongiorno. Pronto? Buongiorno Maurizio, stavamo parlando di lei e ci chiedevamo, si sarà affidata a un medico o avrà fatto da solo? No, noi siamo andati dal dottore di base e il dottore di base ci ha detto appunto che è un problema psicologico. Perché mio figlio ha 12 anni appunto e ogni volta che fa la doccia ha dei problemi alle mani, prurito così, abbastanza invalidante perché insomma dobbiamo forzarlo ogni volta a fare la doccia, dobbiamo farlo con i guanti eccetera. Certo, poi a 12 anni devo dire che i ragazzini attraversano quell'età in cui sono un po' nemici dell'acqua, soprattutto maschi. Professor Altomare, non è un argomento dermatologico, non è vero. Io so di racconti anche di mail che mi arrivano delle ascoltatrici, per questa casa non è un albergo, ma questa è un'altra. Il problema di Maurizio da Rimini l'avevamo già in parte accennato all'inizio. Certo, parlato di questo difetto di aggiustamento, mi consente il termine, aggiustamento del calibro dei vasi passando dal caldo al freddo. Volevo chiedere a questo signore, ma questa cosa capita anche d'estate o capita solo d'inverno? Gli capita anche d'estate, però. Effettivamente siamo a Rimini, quindi andiamo a fare il bagno. Ecco. No, perché il problema è il passaggio fra il caldo della doccia e l'ambiente esterno, e più è il balzo di temperatura è elevato, quindi dal caldo della doccia all'ambiente esterno più la cosa dovrebbe si verifica. Farsi la doccia fredda. Vabbè, magari non esageriamo, tiepidina. Però diciamo un pochino più, sì, un pochino tiepida. Va bene, allora Maurizio, provi con la doccia tiepidina, intanto noi dobbiamo salutarci. Dottoressa Cecchini, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Ringrazio anche la dottoressa Stanzani che ci ha portato nel della psiche. Professor Altomare, lei è una garanzia, la saluto, la ringrazio. E grazie per la garanzia. Devo dire che tanti casi li ha risolti. Così. Speriamo, voilà. Speriamo. Noi ci sentiamo domani, una puntata tutta dedicata alla cocaina, quindi se voi avete delle storie, volete intervenire, potete anche scriverci, se no vi aspetto domani. Buona giornata.